E allora eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti e tutti, questa è Radio Onda Rossa, questa è la Conta, trasmissione contro il carcere, che va in onda appunto ogni 15 giorni, il mercoledì dalle 15 alle 16, sono esattamente le 15:26 minuti, oggi è mercoledì 9 di novembre. Scorriamo velocemente ciò che è successo in questa settimana nel carcere, o comunque intorno al carcere. Intanto purtroppo dobbiamo ancora segnalare un suicidio, stavolta è un ragazzo, Said, condannato all'ergastolo. E qui c'è una serie di commenti di ex detenuti o detenuti che ricordano come il motivo che porta spesso le persone a suicidarsi è proprio l'assenza totale di speranza, cioè la impossibilità di avere una prospettiva di vita. L'ergastolo toglie proprio questa possibilità, in quanto il fine della pena è mai, questa parola terrorizzante. E quindi riflettono insomma su questa cosa qui, dice, chiaro, per l'ergastolano o l'ergastolana, per chi è condannato all'ergastolo, chiaramente il problema si pone in ogni giorno della vita carceraria, può essere quello che fa così, crea quella depressione totale che porta al suicidio. Per le altre carcerazioni pure, però per le altre carcerazioni, come abbiamo visto dai dati, per le carcerazioni a tempo, soprattutto quelle brevi, il periodo più pericoloso è il primo impatto, quando la persona viene stroncata da tutte le relazioni umane, affettive, lavorative, amicali che c'ha, e quindi viene buttata in un luogo dove non c'è nulla, e questo crea sconforto. Il problema è lì, infatti la gran parte dei suicidi o dei tentati suicidi avvengono in quel periodo. Poi lo vedremo più dettagliatamente, perché è uscito proprio il dato riferito al 2015, quindi all'anno scorso, di tutti i cosiddetti, quelli che il Ministero chiama eventi critici nelle carceri. Gli eventi critici sono tutti gli suicidi, gli atti di autolesionismo, le rivolte, le proteste, tutto ciò che diciamo turba il normale andamento. Normale lo metto tra tante virgolette, perché è proprio quello che non si può accettare. Ciò che è difficile sopportare è proprio la cosiddetta normalità del carcere. E questo è molto importante, riflettere su questa cosa, perché se è vero, come diciamo spesso, e credo che ormai ne siano tutti e tutte convinti, che il carcere non è altro che una parte, un'escrescenza di questa società, non è un'altra cosa, è un prodotto di questa società, è qualcosa che permette a questa società di riprodursi, di mantenersi così com'è e riprodursi così com'è. L'abbiamo raccontato anche con la sua storia, nasce all'interno di questo percorso che si chiama modernità, no? La modernità, la contemporaneità di questa società è stata prodotta da alcune istituzioni che prima non c'erano, per esempio la fabbrica, il lavoro salariato diffuso e quindi il carcere. Queste sono le novità che hanno portato a questa situazione, e il carcere serve a permettere che le altre strutture, cioè la schiavitù del lavoro salariato, continui a esistere. Dunque, questo è il punto. L'altro elemento che su cui ci sono moltissimi, tantissimi interventi, commenti, eccetera, è il fatto che domenica il Papa ha dichiarato il giubileo dei detenuti, delle persone in carcere, la domenica ha detto delle cose sui detenuti, cogliendo quell'occasione del fatto che il Papa la domenica avrebbe parlato del problema dei detenuti in Piazza San Pietro. I radicali, più altre associazioni che si occupano un po' delle carceri, quelli che si occupano per le, come dicono loro, per il riportare il carcere all'interno di una realtà di diritto, come se ci fosse mai stato, cioè riportare significa che una volta c'è stato, poi è uscito fuori da una situazione umana, umanitaria, piena di diritti e di godimenti dei detenuti, e adesso bisogna riportarlo dentro. In realtà a noi non ci risulta, non c'è mai stato, il carcere è sempre stato così. Per i contemporanei è sempre un dramma, che a volte dicono, vedendo questo luogo dove viene devastata, annichilita la gente, le persone, è chiaro, dicono, probabilmente non attraverso uno studio storico, ma attraverso così un'intuizione sbagliata, dicono forse non è stato sempre così, perché poiché le leggi, anche le costituzioni, le famose costituzioni che tutti difendono, discutono, vogliono cambiare o vogliono mantenere, insomma, dicono che il carcere deve esistere, perché è fondamentale, consustanziale, scusate questa parola, però è quello, cioè fa parte della sostanza di questa società, di questa attuale, di questa che abbiamo, e serve a rieducare coloro che hanno violato la legge. È scritto sulle costituzioni. E poiché c'è, quindi, essendoci questa dicitura, molti pensano che una volta era un luogo dove le persone gradevolmente, umanamente, venivano così, gli veniva spiegato che avevano sbagliato a violare la legge, perché la legge e questo sistema, questa società è la migliore in assoluto, la migliore che ci potrebbe essere, e quindi venivano rieducati e riammessi nella vita civile. Questo sta scritto, ma quante cose stanno scritte e non si sono mai verificate? Un'enormità, non servirebbero tutte le enciclopedie del mondo per contenerle. Ovviamente questa è un'altra, è un dato di fatto di questa realtà e di questa società, ma anche di quelle precedenti. Ciò che è scritto non corrisponde mai a ciò che succede nella realtà, soprattutto per le persone che appartengono ai livelli bassi della società, quelli che vengono chiamati senza proprietà o i proletari, che vuol dire la stessa cosa, o appunto i poveri, qualcuno li chiama poveri, insomma quelli che stanno in difficoltà e devono tribolare parecchio per arrivare a mettere insieme il pranzo con la cena, diciamo, a fine mese, a mettersi un tetto sulla testa, a vestirsi, eccetera. Bene, male. Comunque, c'è stata questa cosa. Quindi, il Papa che ha parlato dei detenuti e i radicali hanno fatto la manifestazione. I radicali hanno portato in piazza uno striscione in piazza San Pietro, che hanno visto tutte le televisioni, che c'era scritto amnistia. E quindi è stata lanciata questa proposta in una piazza, perché se le proposte fatte in Parlamento non le sa nessun giornale ne parla, portare invece uno striscione in piazza, soprattutto in piazza San Pietro la domenica mattina, è chiaro che tutti ne hanno parlato e tutti hanno commentato, sono tantissimi i commenti, passeremo due ore a raccontarli tutti, vediamo però comunque, però l'elemento, vediamo perlomeno i commenti di coloro che contano purtroppo in questa società e che possono, diciamo, e che hanno gli elementi concreti per vedere, per dire se sia possibile oppure no un percorso, diciamo, di legge sull'amnistia o sull'indulto. Dunque, intanto la parola innanzitutto diamola a Orlando, il ministro, no? Andrea Orlando, ministro della giustizia, che dice, ha fatto questa affermazione: la pratica politica è ardua, per non dire levatevelo dalla testa. In realtà ha detto anche una cosa sensata, dice: bisogna stare attenti a non illudere le persone in carcere che si possa fare un'amnistia o un indulto, perché non ci sono convinzioni politiche, cioè le forze politiche, i parlamentari che stanno sia in una Camera che nell'altra non sono convinti di fare né l'amnistia né l'indulto. E ha ricordato, ma questo lo sappiamo, spero che ormai lo sappiano tutti, perlomeno chi segue questa trasmissione, per votare un'ammissione d'indulto ci vogliono i due terzi dei parlamentari, non delle persone presenti quel giorno quando si vota, ma delle persone presenti e iscritti, per non presenti, anche se non sono, cioè chi non viene quel giorno alla votazione è come se votasse contro. È un po' come il referendum, no? Se uno non va a votare è come se votasse per non farlo riuscire quel referendum, perché il referendum deve superare una certa soglia, no? Del 50% più uno. Così la votazione del referendum per l'amnistia o l'indulto deve essere due terzi dei parlamentari iscritti, cioè che hanno il seggio alla Camera e al Senato. Si fa la riunione insieme, Camera e Senato, e si vota. Se si riesce a votare per vedere i due terzi, ci sono i due terzi, ma è chiaro che queste cose vengono verificate prima in commissione giustizia, perché È pure ridicolo andare in camera, nella camera, discussione della camera, se le forze politiche presenti nelle due camere non sono convinte, cioè voteranno no, perché si perde una giornata e poi quindi si traccheggia, si tengono questi disegni di legge, ce ne sono diversi sull'amnistia e sull'indulto. Sull'indulto è più semplice, si tratta solo di definire gli anni, si tratta di indultare, cioè scalare, l'indulto scala il numero di anni, 2 anni, 3 anni eccetera, in genere 2 o 3 anni fa l'indulto, cioè scala come se li avessi fatti, no? Uno c'ha da fare, mettiamo 5 anni di carcere, ne ha fatti 2, danno un indulto di 3 anni e quella persona esce. Quello che ci fu nel 2006, ve lo ricordate? No, quello è l'indulto, lascia tutto inalterato, però rimane sulla fedina penale quella tua condanna, rimane su tutto quanto, e rimangono anche le pene accessorie, no? A volte pecuniarie o altre, il pagamento delle spese processuali se non è stato condannato è sottoposto anche a questo, a questa sanzione. Questo è l'indulto. L'indulto è come se uno avesse fatto quei 3 anni o quei 2 anni che vengono scalati dalla pena. L'amnistia è tutt'altra cosa. L'amnistia significa cancellare non la condanna, la pena, ma addirittura il reato. Cioè l'amnistia è come se si prende il fascicolo messo in campo da qualcuno, da un pubblico ministero ovviamente che inizia una procedura, quel fascicolo si prende e si butta via. Infatti, quando c'è un'amnistia, a volte è in maniera erroneamente, alcuni dicono: ma con l'indulto escono, perché gente che sta in carcere gli viene scontata una parte della condanna e quindi escono direttamente. Quindi c'è un grosso afflusso di uscita, no? Come fu nel 2006, che furono fatti uscire alle 11 di sera, per fortuna era estate e non c'erano manco i mezzi pubblici, molte persone sono uscite a mezzanotte, e perché erano tanti a uscire, quindi le procedure della matricola per far uscire cominciarono il pomeriggio e finirono a notte inoltrata, e molti uscirono a mezzanotte, in mezzi non c'era più niente, si misero a dormire perché era agosto, si misero a dormire sui prati intorno a Rebibbia. Questa Rebibbia fu una scena un po' ridicola, tant'è vero che la mattina presto alcuni volontari di queste associazioni, Caritas e altro, riportarono un caffè, qualcosa, per fortuna che non faceva, cioè dormire all'aperto agosto a Roma si può fare, però insomma in altre carceri non... Comunque, l'amnistia no, l'amnistia a volte si dice questa amnistia ha fatto uscire poche persone dal carcere, è ovvio, perché non è che le fa uscire l'amnistia, non le fa entrare, è diverso, e quindi è difficile fare il calcolo, perché se fanno un'amnistia, l'amnistia però riguarda alcuni reati, alcuni sì, altri no. Mentre l'indulto si discute se deve essere 1 anno, 2 anni o 3 anni o anche di più, cioè, ed eventualmente quali sono i reati che vengono esclusi dall'indulto, i soliti, no? Mafia, terrorismo, spaccio internazionale, eccetera. Mentre invece però per l'amnistia si fa proprio articolo per articolo del codice penale, cioè vengono sottoposti a amnistia i reati, i fatti, violazione dell'articolo tot, violazione dell'articolo tot, eccetera, altri, e solo quelli. Non è che escono dal carcere, beh, viene proprio stralciato tutto. Quasi sempre quando si fa una grossa amnistia, perché c'è stato un fenomeno di qualche tipo, le persone non stanno in carcere a scontare la pena, perché il fenomeno è di recente effettuazione, è successo poco tempo fa quando si fa una grossa amnistia. Io ricordo per esempio l'amnistia del 70, riguardava tutti le denunce, oppure il percorso processuale fatto per tutte le manifestazioni, gli scioperi, i picchetti, le occupazioni eccetera del 69 ci fu questa grossa ondata conflittuale che ha cambiato il volto dell'Italia, l'ha cambiato molto, e doveva iniziare un percorso per cambiarlo ancora di più, per stravolgerlo proprio. Quella seconda parte non è riuscita, comunque ha dato un segno di grande cambiamento. Beh, e ovviamente come avviene quando si fa un grosso cambiamento, quei soggetti, quelle realtà che attuano il cambiamento vanno contro l'ordine stabilito, quindi contro le leggi esistenti, quindi contro il diritto. Il diritto non è altro che l'ordinamento giuridico, l'insieme delle norme che permettano a un paese di andare, di essere quello che è, no? E quello fu il 69, ma ogni evento che cambia il volto di una società è fatto da comportamenti extralegali, questi grossi, collettivi di grosso, ma infatti appunto manifestazioni, scontri con la polizia, occupazione di fabbriche, picchetti durissimi, percorsi interni, i famosi cortei interni nelle fabbriche, eccetera eccetera, anche atti di sabotaggio, tutto quello che permettono di far capire che quel tipo di società, così com'è, perlomeno quei meccanismi vanno cambiati e vengono cambiati da questa. Ovviamente però tutte quelle cose, se la situazione rimane quella che è, perlomeno l'assetto di potere rimane quello che è, tutte queste persone che hanno fatto queste cose e che hanno cambiato la società, però diventano criminali, delinquenti, insomma, vengono, quindi, e quindi ci furono 30-40 mila denunce subito dopo il 69, di cui 10 mila, secondo i numeri degli avvocati, sarebbero andati in carcere con le norme di allora. E ovviamente il fatto, però, la realtà, perché poi quel momento non è che si era fermato, con alterne vicende andava avanti, quindi costrinse il Parlamento a fare l'amnistia per tutti quei reati che i cosiddetti di ordine pubblico, riguardanti soprattutto le vertenze del lavoro e le vertenze nei quartieri, le prime occupazioni di case, eccetera eccetera, le vertenze sociosociali specifiche di quel periodo. Fu fatta una grossa amnistia. Molti dicono però quell'amnistia è stata la più grande, no? Perché appunto ha evitato a circa 10, 15.000, 20.000 persone di entrare in carcere. Però molti, vedendo quelli che sono usciti grazie a quell'amnistia, dicevano: ma ne sono usciti pochi, non è stata. Ma l'amnistia, non, come ho detto, come ho spiegato e come ho cercato di far capire, e probabilmente molti lo sanno già, non è che fa uscire dal carcere, ma permette di non entrare, perché erano tutti i procedimenti in corso che stavano ai vari livelli, alcuni ancora nella fase istruttoria. Allora c'era la fase istruttoria col giudice istruttore, nelle varie fasi di interrogatorio, alcuni stavano in carcere in custodia cautelare, altri stavano agli arresti domiciliari, le cose, no? Perché non erano reati gravissimi, ma erano tanti, e quindi cioè, l'amnistia fece cascare tutti questi procedimenti penali a vari livelli, e quindi evitò che circa 20.000 persone andassero in carcere, quindi molto importante. Però appunto molti la svalutano, perché dicono, e riguarda pure alcuni reati comuni, perché allora, siccome quel cambiamento c'era, soprattutto coloro che avevano partecipato a quel grosso processo di scioperi, lotte, picchetti, manifestazioni, no? Che era il famoso autunno caldo, no? Come viene definito dai libri di storia, aveva coinvolto anche i quartieri, per esempio, per dire una, ma intorno a Mirafiori, a Torino, che era la grossa fabbrica della Fiat, c'era un quartiere popolare, e quel quartiere popolare fu coinvolto da quelle lotte, quindi fecero manifestazioni, blocchi stradali, direi. Ma anche occupazione di case, tutta una serie di cose. Ecco, e quindi fu anche alcune attività di carattere appunto non proprio organizzato, per esempio i furti nei negozi, eccetera, furono amnistiati tutti questi reati. Quindi circa 20.000 persone non entrarono in carcere, quindi molto importante. Ora, tornando all'amnistia di oggi, Orlando dice che non c'è la possibilità, perché avendo lui ha sentito tutte le parti politiche che poi formano il Parlamento, Senato e Camera dei Deputati, e ha visto che non c'è poi né alla parte né all'altra, perché sono le stesse cose, è una copia la Camera rispetto alle forze politiche che ci stanno. E quindi ha detto: non diffondiamo speranze che poi vengono frustrate e poi ci rimangono male le persone detenute, eccetera eccetera. Si tratta di fare un altro percorso, che invece possiamo fare, ha detto Orlando. Possiamo cominciare a continuare quel percorso, quello che, con quelle leggi svuota carceri che sono state fatte quando c'era Orlando, no? Dopo la sanzione della Corte Europea, e la Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha sanzionato lo Stato italiano. Poi c'è da sviluppare le misure alternative invece che il carcere, cioè quelle misure che non permettono il passaggio in carcere, ma si realizzano nel proprio territorio dove dove si vive, no? Quindi vanno dalla detenzione domiciliare, il divieto di uscire dal comune, e varie cose, no? Lo spostamento di orari e così via. La stessa cosa dicono l'Unione Camere Penali. L'Unione Camere Penali sono l'insieme degli avvocati che difendono i detenuti, no? E anche loro hanno esaltato il Papa che ha fatto sta bella cosa, e poi dicono però che appunto bisogna lavorare per, loro dicono che sarebbe necessario e urgente un provvedimento di clemenza, quindi sono favorevoli all'amnistia, però ovviamente essendo gli avvocati i difensori, però poi dicono che è importante pure lavorare per sviluppare le misure alternative. Ci danno anche i numeri, tutti i detenuti attualmente al 31 ottobre sono 54.912, quindi sono un po' aumentati nell'ultimo anno, erano arrivati a 54.200 all'inizio dell'anno, quindi come vedete sono aumentati non molto, ma insomma la tendenza alla c'è una tendenza lenta ma di nuovo al riempimento delle carceri. Perché? Perché quei provvedimenti svuota carceri sono stati provvedimenti, anche quelli sulla carta, che nell'immediato hanno funzionato perché hanno dato l'impatto, servivano a far svuotare le carceri, altrimenti sarebbe stata altre sanzioni della Corte Europea verso lo Stato italiano. Dopo però nella routine normale devono essere applicati, non c'è niente di automatico, non c'è un automatismo in questi provvedimenti cosiddetti svuota carceri, quindi devono tutti passare al vaglio della magistratura di sorveglianza o del magistrato inquirente, o quello giudicante, soprattutto di quello giudicante che può decidere se dà una pena inferiore ai 5 anni di dare la messa alla prova, cioè non carcere ma un periodo di stare fuori controllato, oppure arresto, detenzione domiciliare, oppure altre cose, ma non in carcere, oppure la dà il giudice di sorveglianza quando stai già in carcere, no? Che controlla l'esecuzione della pena e permettergli, insomma, quindi i numeri, quindi sta, che vuol dire? Sta rientrando, perché di nuovo il tran tran vuol dire, lo sapete, non si dice nel linguaggio comune, cioè l'abitudine a fare le stesse cose, quel meccanismo burocratico che non si riesce a interrompere se non per brevi periodi, e quindi ricrescono. 192 sono gli istituti di pena, gli stranieri sono 18.578, le donne sono 2.300, le persone in attesa di giudizio sono 9.826, è un bel po', una volta era il 40% delle persone detenute, che è quasi la metà, poco meno della metà, adesso è molto meno, 9.800 su 54.900, non c'è la percentuale, però insomma sono sempre tanti, comunque circa 10.000 persone sono tanti, è un quinto, insomma poco meno di un quinto, sono tanti sempre, nonostante la legge che hanno fatto, perché il codice di procedura penale è quello che appunto decide di quando mandare una persona inquisita in cui è in corso l'iter processuale in carcere, in custodia cautelare, oppure tenerla a casa sua in attesa del processo e della condanna o dell'assoluzione. Ecco, questa cosa non c'è, e quindi riprendono a crescere, sono tanti, sono sempre tanti, superiori alla media europea. Poi vabbè, poi ci stanno le carceri delle regioni dove c'è il maggior affollamento, sono come sempre Lombardia e Campania, e questo lo sapevamo. Poi viene Lazio, Sicilia, eccetera. E vabbè, poi altri dicono, vabbè, pure il vice. Allora c'è Benedetto Della Vedova, che è il sottosegretario. Sì, per carità, anche lui dice favorevole quindi un uomo del governo che dice favorevole all'amnistia, che poi non si farà lo stesso perché non è che conta il governo, appunto, però insomma, però dice una cosa che merita di essere, su cui riflettere. Dice questo: a distanza di oltre due secoli dall'illuminismo lombardo, quello di Beccaria, Verri eccetera, no? Questo lo aggiungiamo noi, comunque, che ha messo la qualità della vita nelle carceri al centro della discussione sulla qualità delle istituzioni, ha sottolineato Della Vedova, oggi possiamo continuare a dire che la civiltà giuridica e lo stato di diritto di un paese si misurano anche dalla qualità della vita e i diritti delle persone che si trovano negli istituti di detenzione. Ora, vabbè, ha detto io penso che, non lo so, ma può darsi che adesso sta buttato, tanto per dire siamo ancora barbari, nonostante riprendiamo il cammino degli illuministi di 200 anni fa e invece diamo queste. Ora, ovviamente non è questo, se c'è un problema, se il carcere è diventato quello che è proprio grazie alla teoria, all'idea, all'ideologia dell'illuminismo, di cui il Verri e il Beccaria erano appunto quello chiamato lombardo, perché non c'era ancora l'Unità d'Italia, quindi la Lombardia era il punto che allora ci dava queste esploa. Il problema è che proprio quello è il Cesare Beccaria, in questo subo troppo che okay, proprio qualche mi pare l'altro anno è stato assegnato il 200° da quando è andato in stampa, 200° anniversario, insomma, il problema è che sì, certo, dicevano si sono battuti contro le pene corporali, contro l'avvilimento, perché la punizione sia uguale per tutti, cioè sia ci sia dentro lo straccione, il mendicante, sia se ci va dentro il nobile, la pena dovrebbe essere uguale, la cella dovrebbe essere uguale, cioè le condizioni dovrebbero essere le stesse. Hanno fatto questo lavoro qui, ma non hanno migliorato il carcere, se per migliorare il carcere intendiamo togliere la sofferenza a chi ci sta dentro, perché il Beccaria diceva chiaramente, certo lo diceva per criticare la pena di morte e i supplizi fisici che venivano fatti, dice non servono queste cose, quello che serve è che lo Stato si appropri del tempo di vita delle persone che hanno fatto un reato e lo sottragga per ripagarsi con quel tempo sottratto il valore della violazione che colui che ha violato la legge ha fatto, proprio mettendo in campo, proprio facendo diventare, diciamo, norma un modo di fare che già si era sviluppato da tempo, quello di dire che la libertà, il tempo, il corpo della persona, senza che sia toccato, senza percosse, botte eccetera, deve essere preso in consegna dallo Stato e sottratto alla disponibilità dell'individuo a seconda se ha violato o non ha violato la legge, a seconda del suo comportamento. Questo è un principio spaventoso. Sì, certo, non ci stanno più le fustigazioni, cioè poi le botte danno lo stesso, non è una novità, però prima erano per legge, no? La ruota, tutte queste cose qui. Però insomma, di dire che per legge, e questo è il testo base, insomma, dei delitti e delle pene di Beccaria, insomma, il fatto affermare che lo Stato si può prendere in consegna la vita, non tanto la vita perché entra in genere, ma proprio il corpo e il tempo di libertà della persona, insomma, è un problema abbastanza complesso e su cui andrebbe quello rimesso in discussione. Va bene, ma adesso ci prendiamo uno stacco musicale e poi continuiamo. We'll be right back. E allora, insomma, un po' di rock metallaro per scaldare un po' questa giornata fredda, molto fredda. Dunque, tornando quindi e concludendo con l'amnistia, ammissione indulto, quanto ci risulta, non ci sono i numeri, due terzi, ma nemmeno un terzo, ma nemmeno il 10%. Non c'è, cioè, oggi la cifra, la quantità dei parlamentari che sono favorevoli a un'amnistia è inferiore al 5%, questo per avere un'idea, quindi chiaramente non facciamoci illusioni. Il problema è un altro: nelle carceri e bisogna riprendere la mobilitazione, le proteste, le attività, soprattutto il legame col territorio, che lì quel meccanismo porta a fare dei passi, anche piccoli passi, però crescendo man mano poi la forza e ottenendo sempre condizioni migliori fino all'uscita. Perché sì, chiaro, tutti aspettano il momento boom, che si spalancano le porte tutti fuori, e questa ci sta nella speranza, nell'utopia, però non è così che avviene. Le cose si costruiscono passo passo, con fatica, con difficoltà, e però si ottengono. E difatti è successa una cosa che sta dentro questo come dire, questo garbuglio, chiamatelo come volete, insomma. E durante il giorno, appunto, della domenica, che c'era il Papa, parlava, si sapeva che il Papa avrebbe parlato, perché era stato indetto il giubileo dei detenuti, delle persone detenute, quindi il Papa avrebbe parlato da Piazza San Pietro a favore dei carcerati, dicendo che le pene devono essere umane, tutte queste cose qua, e che c'era quel giorno anche la manifestazione dei radicali per l'amnistia. Insomma, i detenuti erano allertati, sapevano di questa cosa, e quindi erano, diciamo, in mobilitazione, hanno chiesto di stare in gruppi davanti alla televisione a vederla, queste cose qui, no? In fondo era l'ora tranquilla. E è successo che a Regina Coeli alcuni gruppo di detenuti invece, no? Ha cominciato con le grida amnistia, amnistia, amnistia, gridando per partecipare a questa giornata in cui tutti parlavano a favore dei detenuti, e perlomeno così si credeva. E hanno cominciato a fare queste parole, poi hanno cominciato a battere con delle vettovaglie sulle sbarre e sulle porte di ferro, quindi per fare una battitura con rumori, e poi pare che, così dicono perlomeno dalla direzione del carcere di Regina Coeli, che un gruppo di detenuti ha cominciato a sfasciare tutto. Vabbè, niente di che, niente di grave, però hanno qualche televisione rotta, qualche suppellete, niente di grave, però hanno fatto un po' di, si sono un po', come dire, agitati. Perché? Perché è comprensibile questo, no? Il gridare amnistia, amnistia, sentirsi, non so se ha torto o ha ragione, però si sentivano detenuti in quel giorno al centro dell'attenzione, cioè erano usciti fuori per un momento, per un'ora, dall'anonimato, dalla non conoscenza, dalla emarginazione. Il carcerato si sente lo stato di emarginazione, di abbandono, di essere buttato in un luogo, in un nulla, e quindi essere un nulla. Nel momento in cui si sente il Papa parla di detenuti, manifestazione in piazza, amnistia, striscioni, eccetera, si sono sentiti di nuovo dei soggetti reali, dei soggetti sociali reali, e hanno cominciato a farsi sentire. Quindi da lì è venuto fuori, quindi con le urla, però in un carcere chi ti sente? Le urla, le battiture, e hanno detto: vabbè, lasciamo il segno della nostra soggettività sfasciando qualche cosa, niente di che, le quattro suppellettili che ci stanno in cella. Questo però, al di là poi tu figura i sindaci di polizia, il direttore, puniremo, vabbè. Però il problema è importante, perché questo da dice tutto. Vedete che chiaro, questo era un avvenimento televisivo preparato, eccetera, però quando avviene che per rapporto interno-esterno, dal territorio partono dei contatti reali con i detenuti, che non si sentono più soli, abbandonati, esclusi dalla realtà sociale, ma si sentono in rapporto, e questo avviene per esempio con le lettere, lo scambio di lettere, di cartoline, avvengono con i presidi sotto le carceri, ma molto con la corrispondenza, perché si scrive, si riflette, si ragiona, il detenuto ha dall'esterno il racconto di ciò che succede fuori, come pensa la gente, manda quelle che sono le sue condizioni. Quindi questo scambio molto importante farlo per via epistolare, ma anche con i presidi sotto le carceri, eccetera. Insomma, quando non si sente più solo, acquista, riacquista quella dimensione di soggetto sociale, quindi sente che può farsi ascoltare da chi lo tiene rinchiuso, e ovviamente quindi può mettere in moto situazioni di protesta. Ovviamente queste andrebbero ragionate, non si condanna niente chiaramente, però perché siano meccanismi che producano organizzazione interna alle carceri che poi rimane e continua e si ingrandisce, e quindi dopo una protesta quella successiva sarà ancora più forte, e così via. Questo è il meccanismo, no? Ecco, questo bisogna fare, è compito nostro, di chi sta dentro e di chi sta fuori. Ovviamente è successo qualcosa pure a Pisa, carcere di Pisa, a Don Bosco, carcere di Pisa a Don Bosco. È successo che da due giorni, quindi ieri e l'altro ieri, ci sono rifiutano i pasti i detenuti, perché il carcere di Don Bosco è molto, dicono che fa schifo, insomma sempre peggio, non è vivibile. Hanno oltre lo sciopero del vitto, hanno buttato nei corridoi la spazzatura, quindi invece di metterla nel sacchetto, quindi come protesta così, e denuncia questo per farsi sentire e denunciare che l'istituto penitenziario di Don Bosco le condizioni sono allucinanti, quindi chiedono dei cambiamenti. Hanno scritto anche hanno chiesto la visita della la Rita Bernardini, quella appunto del Partito Radicale, quella che tra gli altri, insieme ad altri, ha convocato quella manifestazione a San Pietro, in modo che c'è andata, ha fatto il sopralluogo, ha detto che ha fatto un esposto poi alla Procura della Repubblica, perché le condizioni di detenzione dei 266 carcerati sono più disumane e degradanti che prima. E questo quindi c'è anche quindi queste piccole, però queste due proteste, che sono rare in questo periodo, le abbiamo viste esplodere in un momento in cui appunto, come ho detto prima, si era rotta il silenzio che grava e l'annullamento che grava sulla realtà. Si sono sentiti di nuovo soggetti sociali e hanno fatto il loro, probabilmente è successo in tantissimi carceri, ma noi qui abbiamo soltanto quello che riusciamo a tirar fuori dalle notizie che girano in rete oppure a voce, queste cose probabilmente ne sono successe altre, perché in quei momenti appunto i detenuti si sentono di nuovo dei soggetti sociali validi e fanno sentire la propria voce e dicono le proprie cose. E quindi come detto è importante non aspettare che sia il Papa o i radicali a fare le cose sull'amnistia, anche perché poi l'amnistia non ci sarà, è inutile farsi illusioni, ma ci può essere invece la ripresa delle mobilitazioni in carcere. Se in Italia, qualcuno diceva, se Sparta piange, se Atene piange, Sparta non ride, ed è così. Se in Italia le cose in carcere vanno male, vanno ancora più male in Gran Bretagna. Che succede in Gran Bretagna? Allora, un'organizzazione che fa un osservatorio, il rilevamento sulle carceri inglesi, britanniche, non solo dell'Inghilterra, di tutta la Gran Bretagna, quindi anche del Galles, dice che ogni 90 minuti, cioè ogni ora e mezza, nelle carceri britanniche c'è un pestaggio dei detenuti. Ed è una cosa ovviamente allucinante, quindi un po' così, credo che sia peggio che da noi. Qui non nessuno ha fatto sta rilevazione, ma insomma mi sa che stanno un po' peggio. E si sapeva, l'abbiamo già detto, che nei carceri inglesi anche le carceri inglesi stanno sul crinale del passaggio dalla detenzione massiccia che si è verificata negli anni scorsi fino a poco tempo fa, ad un tentativo di utilizzare le misure alternative per allentare la presenza troppo massiccia, anche perché la presenza massiccia di persone in carcere costa un sacco di soldi allo Stato, e per risparmiare taglia, ma tagliare fondi in carcere significa veramente allucinare. In Italia sono 3,50 euro per il pasto giornaliero, in cui c'è colazione mattina, il pranzo e la cena, 3,50 euro. Provate voi con 3,50 euro a procurarvi la colazione, il pranzo e la cena, vedete che riuscite a trovare. Quindi vedete che insomma, poi per esempio qui in Italia hanno tagliato le spese anche per le attività ricreative. Un pallone che prima si comprava con quei quattro soldi che c'era lì nella cassa delle ammende, adesso non lo puoi più comprare, e quindi che so, devi aspettare che qualcuno te lo regala da fuori, cioè cose tutte per dire queste stupidaggini, no? Le palline laddove c'è un tavolo da ping pong, le palline del ping pong e le racchette che si rovinano ogni tanto, ecco, manco quelle ci stanno, vabbè, siamo al ridicolo, però questa è la realtà. E lo stesso succede in Gran Bretagna. Allora, che anno fa, però, siccome la Gran Bretagna è un paese che è molto peggio, cioè quando succede, invece di dire ma come mai, vediamo, facciamo, andiamo a vedere nelle carceri perché queste, le guardie stanno prendendo queste come dire, libertà di picchiare. E allora, invece no, loro ragionano così, ancora da impero, anche se non è un paese che non conta niente, però hanno ancora l'idea della grandeur dell'impero, quando era un impero, e quindi dicono che sulla divisa delle guardie carcerarie, dei secondini, verrà messa una telecamera. Hanno detto, dicono qui che la grandezza sarà come quella di un pacchetto di sigarette, si mette la telecamera in modo che tutto verrà registrato da questa telecamera, e quindi si saprà esattamente che cosa succede. Quando una guardia si avvicina a un gruppo di detenuti si vede che cosa stanno facendo quei detenuti, rimangono le immagini, quelle immagini possono essere utilizzate per poi fare denunce e cose. Ma dicono che questo permetterà il controllo anche della guardia. Beh sì, perché se ce l'ha, per esempio, immagino sulla spalla, da questa parte qui, se dà una manganellata si vede, comunque si vede che però voi immaginate che una persona, una guardia, mena alla, quindi la telecamera raccoglie queste immagini, che pesta, picchia, massacra, è capace che poi questa scatoletta ci si è rotta, casca per terra, vabbè. Comunque, questa organizzazione si chiama Prison Officer Association, scusate la pronuncia, ma in inglese non è il mio forte, e non me ne lamento, perché non ho capito perché dobbiamo sapere tutti l'inglese, mi pare una, come dire, un obbligo che francamente non si legge in nessuna parte, se non sull'arroganza di chi appunto vuole conquistare il mondo anche culturalmente, insomma. Ma a parte questo, la cosa invece è, diciamo, utile per ragionare, che viene fuori, è che chiaramente questa associazione ha detto che anche bisogna fare al ministero, ha detto che bisogna fare alle guardie, ai secondini, dei corsi per fargli capire che non è che devono sempre bastonare i detenuti, insomma, fare cose varie. È venuto fuori che il numero degli agenti, indovinate un po', il numero degli agenti nel 2010, non si capisce perché non hanno dato un dato più recente, la notizia è di ieri, dell'8, comunque i dati sono del 2010, insomma, il numero degli agenti in Inghilterra, in tutte le carceri britanniche, che contano circa 65.000 detenuti, cioè più che l'Italia, indovinate quanti sono? 7.000, chiaro? In Italia sono 40.000 per 50.000 rotti, mettiamo 51.000 detenuti, sono 40.000, lì per 64.000 detenuti sono 7.000. Ora, che vuol dire questo? Vuol dire che, e pensate, in Italia le guardie si lamentano che sono sotto organico, che sono poche, chiedono nuove assunzioni. Allora, i problemi sono due: o le guardie nelle carceri italiane non vanno a fare le guardie, ma vengono imboscate negli uffici da qualche parte, oppure fare gli autisti, le storie sono uscite sui giornali, sull'Espresso, tantissime, quindi probabilmente fanno queste cose qui, il lavoro che non dovrebbero fare. Mi pare che sono troppe, è anche un costo enorme, perché il costo maggiore delle carceri, l'abbiamo detto più volte, lo ripetiamo, non viene dal vito, non viene dalle attività, viene dal costo della polizia penitenziaria, dei secondini. I secondini costano in Dio 40 rotte, credo, sino 41-42 mila i secondini in Italia, costano un sacco, e vengono tutti, al di là di quello che fanno, possono stare pure a fare i tirapiedi da qualche parte, ma vengono il costo del loro stipendio viene messo sul bilancio delle carceri italiane, quindi un costo enorme, circa l'80% di tutto quello che si spende per le carceri, per la gestione delle carceri, è assorbito dallo stipendio dei secondini. 42.000 per 51.000 detenuti sono veramente quasi uno a uno. Invece in Inghilterra sono 7.000 secondini per 64.000 detenuti. Vedete un po' voi, ragioniamo anche su queste cose. Poi siamo sempre in Inghilterra e nel carcere di Bedford, leggo come è scritto, 200 detenuti di questo penitenziario, uno dei quelli più duri, quelli per una lunga detenzione, anche loro segnalano evidentemente è simile la situazione degradante dell'istituto vecchio, malmesso eccetera. Nella notte tra domenica e lunedì si sono rivoltati, sono arrivati nelle cucine, hanno preso dei coltelli, hanno sequestrato le guardie, hanno chiuso nei loro uffici e hanno cominciato ad appiccare diversi incendi in varie aree del carcere. Poi non si sa esattamente bene la cronaca, ma quando avviene in un carcere poi il racconto viene fatto dalla direzione. Dopo hanno ristabilito l'ordine, dice la direzione, con i funzionari, con i vigili del fuoco, con le forze di polizia eccetera. Come l'avranno stabilito? Vabbè, morti per fortuna non se ne contano, però se immagino i pestati, saranno stati un sacco di gente. Comunque sarà una vera e propria rivolta, il sequestro dei secondini e sono arrivati in cucina a prendere i coltelli eccetera, sono i meccanismi di vera e propria rivolta, quelli che in Italia una volta si facevano negli anni 70 e 80, no? Molto, va bene. Comunque poi è venuta pure l'inchiesta fuori e si dice che questo carcere veramente faceva schifo, perché è venuto fuori un incartamento che stava in un cassetto a prendere la polvere, in cui un ispettore capo, Peter Clark, aveva visitato questo carcere di Bedford e aveva detto, e lui era un funzionario di Stato, aveva detto che faceva schifo, che i detenuti erano rinchiusi in spazi angusti, pavimenti deteriorati, scarafaggi ovunque, bagni sporchi e erano a vista senza nemmeno una tendina davanti. Cioè questo l'ha scritto un funzionario, quindi immagino che la situazione fosse peggiore. Gli detenuti hanno denunciato che è più facile avere la droga in carcere che avere vestiti e lenzuola pulite. E infatti poi lo stesso analisi, inchiesta fatta in questo carcere di Bedford, è venuto fuori che addirittura, pensate un po', il meccanismo dei spacciatori droga che esterni e interni al carcere avevano utilizzato un drone, questi piccoli apparecchietti che volano da soli, un drone per portare la droga in carcere. Questo drone veniva lanciato da fuori, messo in moto, planava sui passeggi senza atterrare, lasciava cadere la droga e poi riandava via. Quindi le guardie o non se ne accorgevano oppure diciamo erano conniventi, e questa è la realtà delle carceri inglesi. Three minutes. allora dobbiamo interrompere anche questa, sono brani lunghi e non qui il tempo corre, sono le 15:54 minuti, quindi abbiamo poco per la terminare la trasmissione. Diciamo, è uscito realizzato dal Ministero, dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, dal DAP, quindi un riepilogo degli eventi critici, li chiamano così, avvenuti nelle carceri italiane nel 2015, l'anno scorso. È molto fatto bene e è utile. Allora, ci stanno i suicidi, gli atti di autolesionismo, li vedremo e proveremo a ragionarci, perché dire il numero così, ogni numero significa qualcosa se lo si ragiona, se no servono così a far strillare i giornali. Partiamo da un fatto molto che non è qui al primo posto, però secondo me ci dà meglio di tutti, come dire, la fisionomia del carcere oggi e della realtà esterna. Della parte di società che non che rapporto strano ha col carcere, con chi sta dentro. Allora, il dato è questo: le evasioni o i mancati rientri. Le evasioni si danno in due modi, no? O uno va via proprio dal carcere, i tre che sono usciti da Re Bibbia, cioè scavalca il muro di cinta col vecchio sistema dei lenzuoli, e comunque scavalca il muro di cinta e va via, e quella è la fuga vera e propria, l'evasione vera e propria, oppure va in permesso. Esce quindi con un permesso, un permesso premio che si danno tranquillamente, cioè si danno ogni tanto, e scava e va via, prende il treno e va via, si fa perdere le tracce, non rientra, e quella è anche un'evasione. Oppure dalla semilibertà, cioè dalle misure alternative, a quel punto esce con i piedi suoi, basta che non rientra, oppure prende un treno e va via, insomma. Allora, sono queste, attenzione, l'evasione vera e propria dall'istituto. In tutto il 2015, indovinate quanti sono stati? 7, 3 italiani e 4 stranieri. Ci stanno pure 3 di qualche giorno fa da Re Bibbia. 7 persone in un anno sono evase. No, scusate, non ci stanno perché è il 2016. 7 in tutto il 2015. Ora, 7, questo è un numero spaventosamente basso, perché in questo paese negli anni 70, un po' di meno negli anni 80, ancora di meno negli anni 90, però insomma fino a tutto il secolo scorso c'erano evasioni. Ho detto, negli anni 70 oscillavano tra i 5, 6, 700 l'anno, evasioni. Alcuni ne ho ripresi, però queste erano 5, 6, 700 l'anno. Negli anni 80 si sono attestate sui 400, poi sui 300, 200, insomma sempre superiore al centinaio. Col secolo nuovo, questo triste secolo, è cominciato veramente male, poi speriamo di cambiarlo, le evasioni già anche nel 2014, nel 2013 erano al di sotto della decina. Mo 7 sono state, 7 evasioni, una cosa raccapricciante. Ora, non perché le evasioni non è che sono diminuite perché hanno aumentato i muri di cinta o la sorveglianza esterna o i sistemi elettronici, no, niente di tutto questo. Anzi, negli anni 70-80, primi 80, sotto quando scattarono le carceri speciali, nel 77 furono sviluppate le carceri speciali e fu aumentato il controllo, perché appunto le evasioni erano tantissime, anche in tutti gli altri carceri, fu dato il controllo al generale dei carabinieri della Chiesa, delle carceri, quindi il meccanismo fu molto sofisticato, il controllo esterno per impedire le evasioni, eppure le evasioni si attestavano oltre i 500 l'anno. Adesso non è che per diminuire i costi non hanno manco, anzi probabilmente sono pure meno difficilmente, è più facile oggi o meno difficile, se volete, scavalcare un muro di cinta, ma non si evade non per una ragione tecnica, ma per una ragione sociale. Il problema è molto semplice, perché quando uno esce dal carcere ha bisogno, entro un pochissimo tempo, un'ora, giù di lì, andare in una casa che lo ospita, in una casa tranquilla. Se va sotto i ponti lo prendono, se va nei prati lo prendono, se va dovunque per strada lo prendono, deve andare in una casa tranquilla. Ci vuole qualcuno che lo ospita, qualcuno che non sia una persona segnata, diciamo, conosciuta alle forze dell'ordine, una persona tranquilla, pulita, che lo ospita dentro casa. E questo una volta era possibile, diffusissimo, perché c'era questa solidarietà tranquilla. Chi sta in carcere, se si conquista la libertà, ben venga, noi gli diamo una mano, insomma. cioè era molto diffusa, quindi una persona che ti ospitava o trovava. Oggi non c'è più, quindi non a caso, vedete, sono più, a me sono 2-3 anni, sono più gli stranieri che tentano oppure gli riesce l'evasione che non gli italiani. Il motivo è questo, perché gli italiani sanno che è successo questa cosa. Si potrebbe dire con una cosa, con uno slogan molto brutto, che fa male a dirlo, e diciamo che non è così, però in gran parte è così. Cioè l'Italia è diventata un paese di secondini, non è proprio così, è brutto dirla, però una parte dell'Italia è diventata, si è fatta convincere a fare il secondino, senza cappello e divisa, però fanno i secondini, nel senso che se uno scappa dal carcere, tanta gente, non sapendo che cosa sta facendo, si comincia a scrutare per le strade per vedere se c'è qualcuno che si muove strano e segnala la cosa alle forze dell'ordine. Ci fu una volta un caso, 2-3 anni fa mi pare, quindi non tantissimo tempo fa, che appunto ci fu un'evasione, allora però la segnalarono i giornali, questa volta sui 3 ragazzi che sono usciti dalla Rebibbia, no, allora forse 4 anni fa, insomma, vabbè, ci fu questa uscita, questa fuga da Rebibbia e addirittura da Regina Celi, una fuga da Regina Celi, e nelle ore successive a questa fuga il centralino dei carabinieri e polizia fu tempestato di centinaia e centinaia di indicazioni di cittadini che dicevano: l'ho visto qua un'ombra, si